così ricordo ancora quando ero piccolo davanti alla TV. Io ti guardavo e il mio mito eri tu. Quando io seppi il tuo concerto lì vicino, io impazzì perché potevo starti vicino. Che mi hai regalato attimi, emozioni senza fine, e spero un giorno che diventerò come te. Ma non è facile perché tu sei il re ed io non sono nessuno. Tu, la persona più grande che c'è e che non c'è più, oh, oh, l'emozione più bella che ho dentro di me. Tu, la persona più dolce che c'è e che non c'è più. Persona che vorrei con me dentro ai miei sogni. Avrei voluto che la tua vita fosse infinita, farti guarire da tutte le malattie, ma è troppo tardi, piangere e andare avanti e fare un sorriso ricordando il tuo viso. Tu che mi hai regalato attimi, emozioni senza fine, e spero un giorno che diventerò come te. Ma non è facile perché tu sei il re ed io non sono nessuno. Tu, la persona più grande che c'è e che non c'è più, oh, tu, una canzone che ho scritto per te e spero che raggiungerti lassù nel cielo, accarezzarti dolcemente, dolcemente. Tutte le giurie che hanno indirizzato a te e non le ascoltare, perché tu sei il re, perché tu sei il re.